La teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da mai quando. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 11 aprile 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E quest'oggi ovviamente parleremo di geologia e terremoti. E abbiamo al telefono il dottor Morelli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Bologna. Buongiorno dottor Morelli. Buongiorno. Dottor Morelli, all'inizio della trasmissione abbiamo al solito le 100 parole iniziali per descriverla e quindi in 100 parole le vorrei fare riassumere più o meno che cos'è un terremoto. Ci proviamo. Ci proviamo. E dunque, la crosta terrestre è sottoposta a degli sforzi che tendono a deformare le rocce che la compongono e naturalmente le rocce hanno una soglia di resistenza e quindi quando questa viene raggiunta si formano delle fratture, come quando fletto la penna che ho in mano, si flette fino a un certo punto e infine si spezza. E spezzandosi genera per l'appunto l'equivalente del terremoto della crosta terrestre. Quando c'è questa frattura si genera un contraccolpo e quindi le onde elastiche, che sono quelle che generano tutti gli effetti del terremoto che purtroppo conosciamo bene. Benissimo, dottor Morelli, di questo e di molto altro ne parleremo nel proseguo della trasmissione. Adesso ci andiamo a sentire il primo pezzo musicale, poi rientriamo in studio e cominciamo davvero a parlare di terra e terremoti. E bentornati a Caccia al Fotone. La trasmissione di quest'oggi comincia così. Breaking news. Let's begin with the breaking news in central Italy, where there's a sense of extreme urgency right now. Un violento terremoto ha colpito alle 3:32 di questa notte l'Abruzzo, in particolare l'Aquila. L'epicentro è stato localizzato tra le frazioni di Collimento e Villa Grande, la parte nord della città. 5,8 sulla scala Richter, pari all'ottavo nono grado della scala Mercalli, ha provocato vittime. Si teme un bilancio pesante perché il sisma ha sorpreso la gente nel sonno. Spaventoso terremoto in Abruzzo, 50 morti accertati, ma ci sono decine di dispersi, decine di migliaia gli sfollati, paesi, edifici distrutti. I palazzi cominciano a cadere, qualche macchina si è anche distrutta. La Dottor Morelli, visto che siamo una trasmissione di scienza, questa volta bisogna partire da lontano, perché questo era un medley dei telegiornali che si sono sentiti durante quella grande scossa di terremoto di 5.8 magnitudo di scala Richter. Ma in realtà, per capire esattamente cosa sono i terremoti, bisogna partire da lontano, e quindi proviamo come degli scavatori a entrare dentro la Terra. Al centro della Terra esattamente cosa c'è? Al centro della Terra c'è il nucleo terrestre, che è un raggio, che circa la metà del raggio terrestre, che è composto di ferro allo stato fuso nella parte più esterna, e con anche un nucleo interno solido, ferro quindi in forma cristallina, solida, e questo è quello che genera il campo magnetico terrestre. Il nucleo si sta raffreddando, sta perdendo calore, che trasmette al mantello terrestre. Il mantello è la parte, diciamo, rocciosa della Terra, è la parte che noi consideriamo solida, e che è solida, è vero, ma che comunque è soggetta a delle deformazioni molto lente. Senta, la fermo un attimo, perché il mantello in realtà non è proprio solidissimo, è una forma che si dice colloidale, perché all'interno del mantello ci sono i cosiddetti moti convettivi, che poi fanno viaggiare come delle zattere la nostra crosta terrestre. Quindi esattamente come è composto il mantello, se lo potessimo definire? E dunque, in termini più esatto sarebbe viscoelastico, e significa che sottoposto a delle sollecitazioni brevi si comporta in modo elastico, per esempio le onde del terremoto, ma su lunghe scale di tempo, quelle dei milioni di anni dell'età della Terra, si può deformare. Quindi ha questo comportamento, come dicevo, che è viscoso su lunga scala temporale, ma anche elastico, quindi è solido, diciamo, per l'esperienza pratica, però è sottoposto a questi lenti movimenti con delle velocità che sono dell'ordine di centimetri all'anno. Quindi, se vogliamo, un po' come un ghiacciaio, anche il ghiaccio è solido, possiamo camminare sopra il ghiacciaio, però vediamo che in questo caso, con delle velocità che sono dell'ordine anche dei metri al giorno, riesce a deformarsi quando è sottoposto appunto a delle forti pressioni. Senta, a proposito di pressioni, al centro della Terra c'è un nucleo interno e un nucleo esterno, ma il nucleo interno è fondamentalmente più duro del nucleo esterno. Come mai questo? La composizione è molto simile. Il nucleo interno è la parte solidificata, è come un cubetto di ghiaccio in un bicchiere d'acqua sostanzialmente, e questa solidificazione sta continuando ad avvenire, infatti anche se molto lentamente il nucleo interno sta a poco aumentando, e quindi diciamo che è la fase stabile alle condizioni di temperature e di pressione. La pressione è maggiore e questo favorisce la fase solida. Ok, quindi spostiamoci un pochino più in alto. Abbiamo visto il nucleo, abbiamo visto il mantello, che è mantello inferiore e mantello superiore, e poi saliamo su. A questo punto troviamo che cosa? Troviamo la crosta, che è la parte più esterna e che è costituita dalle rocce che conosciamo. Ha uno spessore variabile, è più sottile sotto gli oceani, dell'ordine della decina di chilometri, e sotto i continenti è, diciamo, 30 chilometri, ma può arrivare anche a 60 e più. E questa è costituita appunto dal tipo di rocce che sono quelle, diciamo, della nostra comune esperienza. E chimicamente è diversa dal mantello, perché, diciamo, ha una composizione leggermente, insomma, diversa, ed è diversa anche la mineralogia, insomma, che la compone. E le rocce della crosta sono più fragili di quelle del mantello, si deformano su lunghe scale di tempo anche questi, però anche per via delle diverse condizioni sono a una temperatura più bassa, e sono sottoposte appunto alle fratture, che sono quelle che appunto costituiscono i terremoti. Dottor Morelli, molti di noi conoscono, almeno per sentito dire, la cosiddetta teoria della deriva dei continenti, quindi dello spostamento delle placche, ma esattamente questa da dove parte? In realtà, che cosa sono quelle cose che si muovono? Il mantello e la crosta, e il mantello inferiore, il mantello superiore? Cerchiamo giusto di capire, almeno per dare una definizione iniziale, poi entreremo più nel dettaglio. Diciamo quindi che il mantello ha questi movimenti convettivi, insomma, questi moti che sono legati al calore che deve disperdere, al calore che arriva dal basso e che viene trasportato verso l'alto dal materiale più caldo al contatto con il nucleo, che tende a risalire verso l'alto, verso l'esterno. in questo movimento trascina con sé parti della crosta sovrastante, quindi la crosta di fatto è spezzata in grandi placche. E se vogliamo, un po' tornando all'analogia con i ghiacci, è una cosa analoga quando la situazione che c'è nella calotta polare artica, in cui ci sono dei pezzi di ghiaccio che sovrastano l'acqua, e questi enormi dateroni di ghiaccio vengono a contatto l'uno con l'altro e sono anche questi, a causa delle correnti dell'acqua sottostante, sottoposti a delle pressioni che portano alle volte in alcuni punti, in alcune zone, ad allargarsi, quindi a creare delle fessure, in altri a scontrarsi. È quello che succede nella crosta terrestre. Ci sono delle zone dove due di questi datteroni, potremmo chiamarli, di queste placche più propriamente, scorrono l'una contro l'altra, delle zone dove si scontrano e delle zone dove si allargano. Ecco, dove si allargano, che sono le dorsali oceaniche, e sale, risale altro materiale dal mantello che si raffredda, si cristallizza, diventa solido e forma nuova crosta. Senta, dottor Marelli, visto che stiamo parlando di questo argomento, la domanda mia è molto, molto banale e molto semplice, ma come fanno i geologi a sapere tutto questo della Terra, visto che il carotaggio più profondo era di 12-14 km nella penisola di Kola? Il raggio della Terra è 6370, se non erro. Esatto, sì. E purtroppo la nostra conoscenza diretta, come dicevo, è quella delle rocce della crosta. Nel mantello non siamo mai riusciti ad arrivare, non l'abbiamo mai perforato. E naturalmente però abbiamo tutta una serie di altri dati. Innanzitutto, la principale fonte di informazione sulla struttura profonda della Terra viene proprio dalle onde sismiche. Il terremoto appunto genera onde sismiche, non soltanto quelle che generano distruzione, quelle insomma nelle centinaia di chilometri attorno all'epicentro, ma genera delle onde sismiche che si propagano su tutto il globo. Ecco, queste, studiando come queste si propagano, si riesce a capire come è fatta la struttura dell'interno della Terra. È analogo a quello che facciamo con una radiografia in campo medico. Sostanzialmente noi facciamo propagare delle onde, vediamo dove si propagano meglio o peggio, e in base a questo noi possiamo fare anche per la Terra una tomografia analoga a quella che viene fatta in campo medico. Un attacco alla Terra, insomma. Sì, un attacco alla Terra, e questa è la fonte principale. E poi abbiamo, a riguardo della composizione, abbiamo delle informazioni che derivano, se vogliamo, dall'astronomia. Cioè, noi sappiamo che i pianeti hanno certe composizioni, quindi se noi vediamo che certe composizioni medie, se vediamo che la crosta è più ricca di certi elementi, necessariamente altri elementi dovranno essere presenti, dovranno essere più concentrati, più in profondità. E poi per quanto riguarda per esempio il nucleo, noi sappiamo che deve essere di ferro, sia per questioni di percentuali e concentrazioni relative, insomma, di materiali, ma anche perché questi minerali sono gli unici che sono compatibili con quello che sappiamo della struttura sismica. Dottor Marelli, per adesso sentiamo un piccolo pezzo musicale, poi rientriamo in studio e a questo punto parleremo veramente di terremoti e di che cosa sta succedendo proprio in Abruzzo, quindi vicino L'Aquila. Bene. These four rooms, bright and iron and withered fumes. Far below these sinful means, gold has flown through loosened streams. e bentornati a Caccia al Fotone. Quest'oggi parliamo di terra e terremoti. Dottor Morelli, nella prima parte abbiamo sentito parlare di, almeno abbiamo sentito citare alcune parole chiave, abbiamo sentito la parola placca, abbiamo sentito il fenomeno della convettività, cioè il mantello convettivo che sposta le placche, però c'è un termine tecnico che ci serve per i terremoti, le faglie. Esattamente che cosa sono le faglie? Le faglie sono appunto queste fratture che si generano all'interno della crosta. E fratture che tendono ad avere terremoti ripetutamente, perché quando la crosta si è fratturata, naturalmente quella frattura diventa una zona di debolezza e quindi si è visto che i terremoti tendono a ripetersi sulle stesse strutture. Noi queste le conosciamo soprattutto da un punto di vista geologico, perché questa serie di movimenti e di deformazioni della crosta, molte di queste sono delle faglie, chiamiamole così, fossili, delle faglie che adesso non sono più in movimento, ma che si sono sollevate nel processo di formazione delle montagne. Magari l'erosione poi ha asportato le rocce che stavano sopra, e molte di queste le possiamo vedere, quindi i geologi le studiano anche così. Altre faglie sono delle faglie attive che arrivano anche alla superficie, come la ben nota faglia di San Andreas in California, dove stanno aspettando i Big One da non so quanti anni. Sì, sì, infatti dovremmo parlare di previsione dei terremoti, dei fallimenti, in media la previsione dei terremoti. Comunque, ecco, faglie come quella sono delle faglie molto, molto evidenti, che si vedono anche in superficie. La maggior parte delle faglie attive, soprattutto in zone come l'Italia, dove queste faglie non sono grandissime, sono però sepolte, diciamo, non arrivano alla superficie, e quindi sono difficili da conoscere, perché non le possiamo vedere, non le possiamo toccare, insomma. Senta, molto semplicisticamente possiamo dire che le faglie sono delle zone di scontro o incontro delle placche tettoniche? Sì, nelle zone, diciamo, che si concentrano, le faglie sono delle fratture che si concentrano in queste zone. In realtà la struttura della zona di scontro fra due placche è più complicata, possiamo vederla in primo ordine come semplicemente un'unica frattura, un'unica faglia. In realtà, come dicevo, localmente c'è molta, può assumere delle caratteristiche anche molto complesse. Nel caso nostro, per esempio, il grosso scontro che sta avvenendo tra la placca africana e la placca eurasiatica, che sono in scontro. La placca africana si sposta verso la placca eurasiatica, ecco, però la zona di contatto è molto complicata. Appunto, non abbiamo qui un taglio netto come nella faglia San Andreas, ma abbiamo tutta la zona del Mediterraneo con una serie di microplacche, le chiamiamo noi, che si scontrano, si allargano e quindi complicano di molto l'immagine, ecco, perché non è chiaramente una zona in cui si vede una cosa che procede in un senso e una nell'altro, ma ecco, lo schema è molto più complesso. Qui in Italia sono in corrispondenza dell'Appennino, se potessimo semplificare, giusto? Sì, qui in Italia diciamo che la microplacca che possiamo considerare è quella dell'Adriatico, sostanzialmente, che da una parte spinge verso l'Europa, e qui abbiamo la zona del Friuli, che è una delle zone con alta pericolosità, e dall'altra parte spinge cercando di immergersi, perché poi le placche possono anche, nel caso dello scontro, infilarsi dentro il mantello o cercare perlomeno di farlo, e in questo caso sta originando tutta la dorsale appenninica. La dorsale appenninica, che per l'appunto è prodotta da questo scontro con il materiale della placca, microplacca adriatica, che tende ad andare ad infilarsi sotto il mantello, generando appunto questa zona con il sollevamento degli Appennini. Infatti la pericolosità si possono facilmente vedere, probabilmente molti degli ascoltatori avranno visto delle mappe di pericolosità sismica italiana, vediamo che tutta la fascia appenninica è colorata con colori molto vivaci, insomma. Senta, arriviamo quindi alla domanda chiave: che cosa è successo vicino all'Aquila? Perché il grosso terremoto vuol dire che, dal punto di vista geologico, qualche faglia ha reagito male, o almeno ha reagito bene dal punto di vista geologico, perché lì c'è stato un accumulo di energia elastica. E quindi che energia elastica e quali sono le due placchette che si sono spostate per generare questa energia elastica? Appunto questo quadro di deformazione si è concentrato lo sforzo in, come del resto avviene e sta avvenendo lungo tutta la dorsale. Ecco, diciamo che in questo caso si è generata una frattura che è diventata molto grande. Noi siamo abituati comunque ad avere sismicità diffusa, sismicità che in tantissimi casi non viene neppure avvertita dalla popolazione, oppure in alcuni casi viene avvertita e non preoccupa perché è a livelli molto bassi. Questo livello di sismicità di fondo è distribuito in maniera abbastanza continua nel tempo, non nello spazio, perché come dicevo è concentrato lungo questa fascia. In realtà noi non sappiamo ancora bene che cos'è che generi un grande terremoto rispetto a tanti terremoti piccoli, perché tutti e due sono dei modi, diciamo così, leciti di deformare una zona, no? Posso avere tante piccole fratture distanziate nel tempo e nello spazio, in questo modo generare per l'appunto la deformazione che mi serve, oppure questa deformazione può avvenire in un unico grandissimo movimento. Ecco, noi non sappiamo ancora che cosa determina il fatto che ci siano delle fratture grandi rispetto a tante piccole. Molto probabilmente una frattura, quando inizia, noi diciamo insomma con un'immagine insomma un po' così, che non sa, ecco, se diventerà un grande terremoto, se rimarrà un piccolo terremoto, dipende dalle situazioni di debolezza che incontra, dalla presenza o meno, non so, di fluidi che possono cambiare di tanto il comportamento delle rocce. E ecco che se questa frattura, che magari poteva essere soltanto piccola, trova lì vicino, in un'altra porzione di questa faglia, delle situazioni vicine alla situazione limite, a questo punto si propaga, diventa più grande, la deformazione aumenta ed è facile che riesca a coinvolgere in questo spostamento anche le faglie vicine. È un processo catastrofico, se vogliamo, simile a quello che succede, non so, in una frana. Ecco, magari una frana può essere generata magari da degli spostamenti piccoli, oppure gli spostamenti possono diventare più grandi man mano che il processo si propaga, fino a generare una frana di grandi dimensioni. Senta, ma le placche esattamente come si possono muovere l'una rispetto all'altra? Perché sappiamo che possiamo avere per esempio fenomeni di subduzione in cui una placca entra nel mantello, una placca può sfregare con l'altra placca. Quindi esattamente quanti sono i modi, e quando una placca si è mossa in un modo può poi spostarsi in un altro modo? Beh, dunque sì, i modi di interazione, diciamo, elementari sono tre, naturalmente, cioè ci sono due placche che possono essere, insomma, scontrarsi, cercare di andare una contro l'altra, oppure allargarsi, allontanarsi una dall'altra, o essere trascorrenti, una si sposta da un lato, una dall'altro, come nel caso della faglia di San Andreas. E questo modello naturalmente è una semplificazione, perché in molti casi la situazione è molto più complicata. E nel caso di due placche convergenti possono succedere due cose, sempre semplificando: in un caso una placca può inserirsi sotto l'altra e sprofondare nel mantello, nell'altro caso, questo per esempio sulla costa occidentale del Pacifico è quello che succede con la subduzione della crosta oceanica pacifica sotto per esempio le isole giapponesi. In altri casi invece, come in altre zone, se c'è crosta continentale che si scontra con crosta continentale, in questo caso si creano delle zone montuose, come per esempio l'Himalaya e tutta la zona circostante, insomma. E questo perché il materiale di cui è composta la crosta continentale è più leggero del materiale del mantello, e questo significa che la crosta continentale non può sprofondare e non può essere ripresa e riomogeneizzata nel mantello, come invece succede per la crosta oceanica. Abbiamo detto che le placche si possono allargare, ecco, quando si allontanano l'una dall'altra risale materiale dal mantello che si solidifica e che forma la crosta oceanica. La crosta oceanica quindi è chimicamente molto simile al mantello, e la crosta oceanica, quando si trova a sbattere contro altra crosta, viene riassorbita nel mantello. Senta, ultima domanda: oggi i giornali titolano tutti che l'Aquila si sarebbe spostata di 15 centimetri. Ora, io sono balzato sulla sedia quando ho visto questa notizia. È possibile davvero che l'Aquila si sia spostata di 15 centimetri? Mi sembra un pochino eccessivo come calcolo. No, è senz'altro eccessivo e c'è un malinteso, insomma, avranno capito male, sono 15 mm. Le deformazioni che sono state misurate, le deformazioni alla superficie legate a questo scorrimento di questa faglia in profondità, sono dell'ordine, in questo caso credo sì, di 15 mm, cioè un centimetro e mezzo, due centimetri, comunque questa è la deformazione. E sono delle deformazioni comunque relativamente locali, insomma, non è che tutta la terra si è spostata di questa montare, insomma, e sono, diciamo, locali, però su di una scala abbastanza vasta, nel senso che nessuno se ne accorge se non con degli strumenti come i GPS che usiamo per fare questo genere di misure. Senti, dottor Merelli, adesso mettiamo un pezzo musicale, torniamo in studio e rispondiamo all'SMS che è appena arrivato al 333 180 94 94. Siamo in conclusione di trasmissione. Il nostro affezionato Gianni ci chiede: e sulla questione di Giuliani e del radon non ci dite niente? Un po' me l'aspettavo la domanda. Dunque, l'emissione di radon in occasione di terremoti è una cosa che è studiata già da tanto tempo. La previsione dei terremoti è iniziato ad essere studiata soprattutto, diciamo, una trentina di anni fa, e diversi sono i possibili precursori che sono stati considerati. L'emissione di gas come il radon, appunto, è uno di questi. Altri effetti legati alla variazione dei fluidi nella crosta, come per esempio variazione di livello di pozzi oppure nella portata di sorgenti, sono altri che sono stati misurati. Sono considerati effetti piezoelettrici delle rocce sottoposte a sforzo, che nella vicinanza del raggiungimento della soglia di frattura avrebbero un comportamento diverso dal solito. Sì, da questo punto di vista diciamo che Giuliani non ha scoperto niente, perché il radon era comunque uno dei gas tra virgolette precursori, nel senso che ci sono degli studi internazionali che lo utilizzano come precursore. Il discorso è solamente quanto è precursore, è deterministica la previsione oppure no? Ecco, purtroppo questo è il problema, è che questi precursori si è visto che in alcuni casi sono associati all'occorrenza di terremoti, in alcuni casi no, in alcuni casi c'è il terremoto e non c'è il precursore, oppure c'è il precursore e non il terremoto. E ora la previsione deterministica del terremoto è una cosa molto complicata ed essere fatta molto bene, perché l'impatto sulla società è grosso, cioè bisogna essere ben sicuri che il terremoto poi ci sarà, perché un'evacuazione in massa di una città è una cosa importante che di per sé provoca ha un costo, disagio, provoca probabilmente anche feriti nelle operazioni di evacuazione. Quindi è statisticamente fino adesso però non è mai stata dimostrata la praticabilità, insomma, dell'utilizzo di nessun precursore. Poi peraltro da giornalista seguendo queste cose ho notato che nel 2008 l'Italia è entrata in un progetto internazionale che in teoria prevederebbe un'installazione di 10 radometri ogni regione, quindi insomma una previsione nazionale sarebbe un qualcosa di molto molto complicato che non si potrebbe fare con 5 radometri tra virgolette fatti a casa, se mi passa il termine. Sì, io adesso non conosco la strumentazione di Giuliani, insomma, per cui non sono in grado, insomma, di dire, non ho visto i suoi dati, quindi non lo so, può darsi che abbia dei dati interessanti, però diciamo che sarebbero da portare alla discussione in ambito scientifico, insomma, in una situazione come questa, ecco, è evidente che non si può dar credito per un'evacuazione in massa a degli studi che non sono ancora stati ben testati e verificati, insomma, in ambito scientifico. Quindi sì, come dice lei, insomma, è una cosa importante che comunque dovrebbe coinvolgere un test su scala molto più vasta, ecco, che non quella locale dove è stato effettuato. Dottor Marelli, io la ringrazio per essere intervenuto in diretta, saluto gli ascoltatori di Caccia Fotone e di Radio Città Fucico. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio, stesso fotone, e come al solito una buona scienza a tutti. Grazie ancora, dottor Marelli. Prego e buona giornata.